Italia in controluce. La seconda edizione di Italia in controluce per quest'oggi 24 dicembre, a poche ore dal Natale, l'edizione che narra la politica locale, le storie di cronache italiane, ma anche il costume, lo spettacolo, la cultura e molto altro ancora. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Dario Fo, uno dei grandi strioni del teatro contemporaneo, un uomo colto, un uomo schierato certamente, ma un grande ricercatore di cultura popolare, di letterature, di straordinaria improvvisazione. Dario Fo, lo ricordo, è premio Nobel, regista, attore, scrittore, l'uomo di teatro contemporaneo maggiormente rappresentato in Italia e in tutto il mondo. Giovanni Bracco lo ha intervistato per questa puntata speciale di Italia in controluce. Nel 1945 l'Italia, distrutta dagli orrori della guerra e dai bombardamenti, guardava all'inizio della ricostruzione. Edoardo De Filippo mise in scena Napoli milionaria. 65 anni dopo, molti dei temi scavati da Edoardo nella realtà di quel momento rimangono più che mai attuali. La corruzione, il paternalismo dispotico del potere, il disimpegno dilagante, la solidarietà e il suo contrario. In questa conversazione con Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, leggiamo le storie dell'Italia di oggi prendendo spunto dal capolavoro di Edoardo. Uno dei primi temi che salgono dal testo è il cattivo esempio di chi sta al potere. È Amedeo che parla, è il figlio senza arte né parte del protagonista Gennaro Iovine. Dilagano la borsa nera e il contrabbando e il giovane addita il malcostume della classe dirigente per concludere: «Rubi tu? Allora rubo pure io». Ma quando tu vidi che chi avesse dato buon esempio e songe una mappata mariuole, allora uno dice: arruba tu, arruba pure io, si salvi chi può. È proprio il clima dell'Italia oggi, questo è l'esempio che dà il governo, in molti casi anche i politici, perfino dell'opposizione, sono sempre, insomma, alcune volte stucchevoli e altre volte disperati, cioè nel senso che non c'è più speranza rispetto al fatto di cambiare rotta e cambiare ritmo. Sono dal tempo della grande crisi che c'è stata, Mani Pulite, lo ricordate tutti, insomma, c'è stato proprio una speranza che quella botta terribile che i politici avevano così dovuto digerire rapidamente fosse veramente una medicina straordinaria, un modo di rimettere in diversa dimensione l'agire e l'essere. E invece ecco che siamo di nuovo da capo. Noi abbiamo fatto allora uno spettacolo che si chiamava Settimo Rubo un po' meno, dove c'erano tutte le storie di corruzione, di truffalderia, di furbizia, di scaltrezza, di menzogna e via dicendo. Aveva avuto un enorme successo, l'abbiamo replicato per 2 anni e man mano che andavamo avanti con questo discorso, ecco che succedeva una cosa incredibile, si riempiva, noi mettevamo delle fotografie incollate su un grande dépliant enorme di 10 metri per 9 di altezza e pian piano quello si è riempito tutto, tanto che abbiamo dovuto allungare questo spazio perfino in palcoscenico, oltre il palcoscenico, perfino in platea arrivavamo con queste fotografie, tanto erano quelli che non si erano fatti peccare proprio con le mani nel sacco. E la gente era stupita vedendo tante persone che si stimavano fino a qualche anno prima, che avevano una credibilità ridotte ad essere messe alla gogna, insomma, una gogna morale alta. C'è anche un altro tema ed è la solidarietà. C'è Riccardo, al quale Amalia coi traffici illegali ha tolto tutto, è il solo ad avere la medicina che può salvare la figlia di Amalia stessa e gliela porta dicendo: come vedete, chi prima e chi dopo deve a un certo punto bussare alla porta dell'altro. questa sarebbe la chiave della solidarietà, non si può rimanere isolati, e purtroppo è il guaio di questo momento. La gente si isola, dice ma chi me lo fa fare di prendere una DSD, non parliamone più, non, ascoltiamo la televisione, guardiamoci i servizi che ci sono, divertiamoci alle situazioni paradossali, ed è lì proprio di nuovo si cade nella trappola, perché è la televisione che ci ha insegnato a non essere dentro il gioco, peggio, ad essere disinformati. Questo è il clima folle, pericolosissimo, la disinformazione, e il voler essere disinformati, cioè non entrare nella condizione di dire ho il dovere di partecipare. A questo proposito vorrei sottolineare un altro dei temi portanti di Napoli Milionari, appunto il disimpegno, il non voler sentire né vedere, appunto. Spesso perché abbagliati dal denaro. C'è Gennaro che dice verso il finale, ma mo perché non ne vanno sentire parlare? Prima di tutto perché non è colpa tua, la guerra non l'hai voluta tu, e poi perché i carte 1.000 lire fanno perdere a capo. Proprio il gioco della corruzione di questi giorni, quando sappiamo che ormai i deputati che sono messi nel mercato sono diventati abbastanza numerosi e se ne parla così tranquillamente. Quanto hanno chiesto? Tot milioni, e quanto gli danno? Poi gli danno delle gratifiche, poi ci saranno delle situazioni di ingaggio che varranno milioni e milioni, tranquillamente, e la gente non si indigna, cioè voglio dire, dicono però ragazzi che furbi che sono, e c'è anche l'applauso, e Edoardo ogni tanto lo ripeteva questo andare, per cui chi è furbo è da applaudire, chi è scaltro, chi è mariuolo è proprio da pacche sulle spalle, e fessi sono coloro che non entrano nel gioco. Maestro, poi c'è un tema che attualizzato suonerebbe così, che pensi mi? Gennaro parla del calmiere delle merci e dei prezzi per arrivare a una morale più generale. Dice il calmiere significa praticamente siccome tu non sai campà, levati la mizza che tambari come se campa. Proprio esatto, preciso. Edoardo fa appena finita la guerra ed è incredibile come quello che aveva previsto già in sottecchi è diventato palese, è diventato luogo comune addirittura. Edoardo scrisse questo lavoro subito dopo la guerra, c'era un po' di speranza, ad passare a nottata era un richiamo però a questa speranza che lui vide subito tradita. Infatti nel libretto che scrisse per Nino Rota, per l'opera lirica Napoli Milionaria, ci fu un po' una rivoluzione, l'ultima battuta la tolse, e oggi dopo 65 anni, maestro... Quale battuta? Quella della passata giornata? Ad passare a nottata. La nottata, sì. E oggi dopo 65 anni questa nottata non è ancora passata. Sì. Ma c'è ancora di più. Il disastro è che questo motivo che Edoardo tira fuori ogni tanto anche in altre commedie, quella cioè della speranza, dice abbiamo dato speranza, l'unica nostra salvezza è la speranza. Poi mi ricordo, ne ho parlato tante volte, dice ci raccontavamo le chiavi e le situazioni dei lavori che stavamo scrivendo, a un certo punto ho detto una stronzata questa speranza. La speranza bisogna cavarla di mezzo, bisogna insegnare alla gente a non avere speranza, perché la speranza è un rimandare al colpo gobbo, al momento della fortuna, l'affare che ti viene per caso, la sistemazione come per incanto, per un miracolo, e invece è lì che si cade tutti, perché ci hanno insegnato a star tranquilli, buoni, sperare è una fetenzia. Italia in controluce, seconda edizione, termina qui. Sul mio blog potete trovare i post Daniele Biacchesi su radio24.it, poi Twitter in controluce, Facebook Radio 24 Italia in controluce, la mail controluce@radio24.it. Buon Natale a tutti, la mia voce torna lunedì 27 dicembre alle 6:30 naturalmente su Radio 24.